Popolare vi ha presentato La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Ringraziando tutti per l'attenzione, ringraziando Walter per la regia, auguriamo buona giornata a tutti quanti e vi rinnoviamo l'appuntamento a domenica prossima. Arrivederci. Appello, comunicazione di servizio. La signorina che nell'ormai lontana estate scorsa ci ha mandato una pregevole cassetta con proposte operative e lettera d'accompagnamento, sappia che la lettera d'accompagnamento è andata perduta e se vuole una risposta deve comunicarci nome, cognome, indirizzo e numero di matricola. Grazie.